Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Alcune informazioni. La prima riguarda il mio blog Guardie o Ladri. Lo trovate sotto il mio profilo su radio24.it oppure qualunque motore di ricerca ve lo può agevolmente trovare, così come sulla prima pagina del Sole 24 Ore Online. Così potremo continuare il dialogo che abbiamo anche per radio. La seconda informazione riguarda invece la nostra mail, che è unabusoalgiorno@radio24.it, mail che è stata raggiunta da un nostro amico radioascoltatore veneto, che ha fatto presente un caso abbastanza particolare che lo riguarda e riguarda anche un'amministrazione comunale, ma più in generale le leggi che governano, spesso non governano in questo paese, il rapporto, diciamo così, tra proprietari edilizi, tra proprietari terrieri, tra persone che vorrebbero, come dire, vederci chiaro nello sviluppo urbanistico della propria città e la città stessa, appunto. Noi, per parlare di questo caso molto interessante, che è sì particolare del singolo, ma che sicuramente poi alla fine potrà trovare come in uno specchio molti nostri radioascoltatori, appunto, a guardarcisi dentro, abbiamo chiamato proprio il radioascoltatore Aldo Mariconda. Buongiorno. Buongiorno. E abbiamo chiamato a interloquire con lui il nostro esperto, dottore commercialista, esperto in materia fiscale del gruppo 24 Ore, Luigi Lovecchio. Buongiorno Lovecchio. Buongiorno a tutti. Allora, io direi di partire proprio con la descrizione del suo caso, Mariconda, perché è abbastanza particolare. Ovviamente è lo abbastanza semplice, pure esatto. Particolare, perché io apparentemente ho ereditato dei ricchi cespiti patrimoniali a livello immobiliare. Beato lei. Ecco, solo che si tratta di, oltre ad alcune strade che sono di uso pubblico e che non hanno proprietà mie o di miei avi intorno o non ce l'hanno più, c'è un terreno fabbricabile, addirittura dichiarato fabbricabile per 1,5 metri per metro quadro, sono 350 metri quadri, quindi potrei in teoria costruirci qualcosa di valido. Questo terreno è incastrato tra 3 edifici e una strada, prevede delle condizioni per l'edificazione di 10 metri dal confine, quindi in teoria se non lo accorpo ad altri terreni che non sono miei non posso costruirci neanche un canile. La realtà è che mia madre, che è scomparsa e della quale ho ereditato il patrimonio, e non sapeva che questo terreno non fosse di pertinenza dei 2 edifici vicini, perché è vero che concettualmente la pertinenza in termini giuridici deve avere la stessa proprietà dell'edificio cui l'appartenenza è destinata, però in realtà qui ci sono i cancelli d'ingresso nei 2 condomini, ci sono le aiole, gli alberi, non dico secolari ma di 50-60 anni, quindi c'è una situazione consolidata tale da far sì che se io volessi questo terreno, spendendo soldi di avvocato, mi sarebbe opposta all'usucapione, ma non vorrei andare in causa. Ecco, perché intanto chiariamo che ci troviamo nel comune di Treviso, quindi quest'area è ubicata nel comune di Treviso. Prima era un'area agricola. In una ricca zona, subito fuori le mura della città. Ok, questo terreno di proprietà di sua madre nemmeno sapeva di averlo in proprietà. Nemmeno sapeva che fosse suo ma vincolato. C'è un pezzo di carta manoscritto di mia nonna che ho trovato negli archivi del comune, dove lei si impegnava a lasciare inedificato l'area, certo, e di lasciarla ad uso dei condomini, ma non è nemmeno registrato e non ha okay valore verso terra. Allora lei dice: se io volessi farci qualcosa con quest'area, pur in una zona, diciamo così, pregevolissima, non saprei cosa farne, al di là del fatto che tutto intorno a me c'è qualcosa di già costruito, edifici esistenti, ma oltretutto chi in questi anni su quel terreno è transitato può chiaramente vantare un diritto di usucapione, però il comune di Treviso su questo terreno le chiede l'ICI, cioè l'imposta comunale sugli immobili. Ovviamente per coerenza, essendo area fabbricabile, mi chiede l'ICI e l'ho anche pagata. Per fortuna ho trovato una dirigenza dell'ICI abbastanza comprensiva, mi ha fatto fare una perizia tecnica da un geometra, un architetto, che parla di un valore minimo, ma un valore bisogna pur darlo all'area, certo. E quindi poi ci ho pagato l'ICI sopra. Certo. Per aggiunta, se io facessi anche una donazione o una compravendita ai vicini e non vogliono pagarsi nemmeno le spese di trasferimento, entro i 5 anni sarebbe presunto un atto speculativo. Ecco, allora tanto specifichiamo anche il fatto che il nostro radioascoltatore Mariconda ha chiesto all'ufficio urbanistica di Treviso di far tornare agricola quest'area edificabile, ma gli è stato risposto che può tornare ad esserlo quando ci sarà un nuovo piano regolatore ed eventualmente può tornare ad esserlo. Noi abbiamo chiamato, invitato l'assessore all'urbanistica e all'edilizia del comune di Treviso, Sergio Martone, il quale ci ha risposto cippa, vale a dire ci ha risposto che è talmente occupato che non può intervenire in trasmissione. Ovviamente i nostri microfoni sono sempre aperti, perché non si tratta di criminalizzare il comune di Treviso, che in questo ha un ruolo limitatissimo, ma cercare insieme di capire come si risolvono i problemi che sono di Mariconda, ma chissà quanti di voi vi sarete trovati nella condizione in cui avete ereditato una proprietà che non sapevate neppure di avere, avreste voluto o vorreste destinarla ad un fine X, non potete per una serie di ragioni e vi trovate imprigionati in una proprietà che, anziché essere un potenziale beneficio ed un potenziale lecito arricchimento per chi la riceve, diventa un guaio, diventa un problema. Lo vecchio, insomma, è un problema. Come si risolve secondo lei questo problema? Ma credo che la soluzione l'abbiano già individuata di comune accordo sia il nostro ascoltatore sia il comune di Treviso. Purtroppo qui c'è un vizio d'origine che è da attribuire al legislatore, perché la nozione di area edificabile ai fini dell'ICI è una nozione che è stata definita meramente formale, cioè è edificabile ciò che formalmente risulta come tale in base al piano regolatore generale, anche se in concreto io non posso edificarci nulla. Quindi cornuto e mazziato in questo caso, perché in sostanza l'unica soluzione corretta è quella che mi pare abbiano già individuato e che io condivido assolutamente, cioè siccome la norma dell'ICI dice edificabile sì, ma il valore deve essere il valore di mercato, certo, allora è evidente che non mi posso inventare un valore di 100.000 euro e di 50.000 euro e cose di questo genere, ma devo andare ad attribuire un valore che realisticamente può essere attribuito a quel bene. Certo. È vicino allo zero, deve essere vicino allo zero. Allora alla fine forse stiamo parlando di un'ICI che deve essere pagata, ma di un'ICI che forse non incide o non dovrebbe incidere più di tanto sulle tasche del cittadino. Ma indubbiamente, ma al di là del fatto che incida o non incida, lo stesso Mariconda mi pare in maniera molto limpida e molto come dire pulita e coerente ha detto che quella è la situazione e che sicuramente l'ICI l'ha pagata, quindi ci troviamo di fronte ad un cittadino onesto che segue le leggi. Però il problema mi pare proprio di logica, cioè il fatto che Mariconda, come chissà quanti altri cittadini, si trovano ingabbiati, cioè hanno una proprietà, devono pagarci l'ICI anche se in realtà neppure sapevano di averla e non possono edificare per tutti i motivi che abbiamo sentito, e oltretutto devono attendere un atto successivo ed eventuale che fa tornare quell'area agricola. Io dico, non si può con il buon senso trovare una risposta diversa? Ad esempio, non può il comune dire non c'è bisogno di aspettare un nuovo piano regolatore, lo facciamo con un cambio di destinazione d'uso, con una delibera? Cioè mi domando, è possibile oppure non c'è niente da fare? La norma dell'ICI fa riferimento a ciò che risulta in base agli strumenti urbanistici vigenti, questo è il riferimento. Il riferimento quindi è chiarissimo, è un riferimento allo strumento urbanistico vigente. E questo vigente? E questo vigente? Certo, certo. Io direi di terminare. Se dobbiamo auspicare qualcosa, io auspicherei un intervento correttivo da parte del legislatore che vada a qualificare come edificabile solo ciò che da davvero è sfruttabile a livello. Certo, quindi insomma il comune a sua volta ha le mani legate perché non può intervenire laddove deve obbligatoriamente intervenire il legislatore. E allora siamo freschi, caro Mariconda. Certo. Allora io ringrazio il nostro radioascoltatore Mariconda, il nostro esperto Luigi Lovecchio, in regia Carmelo Lauricella, in studio Valeria Coffaro e Roberto Galullo, vi auguro una buona giornata.